senza rimorso. Non ho mica fatto nessuno se ne accorto. Senza rimorso. Tutti sanno che sul mondo ormai non si può più contare. Una volta dava bene, te bene ricordare. Ma adesso stragi di là, pazzi di qua. Troppa gioventù cresce in cattività. Vivono male, mutano psicopatici. Scendono per strada per creare nuove lapidi. Scendono per strada con in pugno una pistola. Ammazzano 10 passanti, qualche macchina vola. Poi si fermano e si puntano alla testa. Sparano il colpo da rapina ciò che resta. Un'ora d'attesa fino a mentre la polizia lavora per 2 giorni, poi il caso butta via. Non importa la nazione se qualche ragazzo distrugge la sua vita. No, non gliene frega un cazzo delle famiglie fragili come la sabbia. Voto di speranza se il mondo pompa rabbia. Vigia senza rimorso. Vivi senza rimorso. Senza rimorso. This is Crackfish senza rimorso. Vivi Black Back Production senza rimorso. Vivi senza rimorso, baby. Senza rimorso. È una tragedia, vivi senza rimorso. Senza rimorso. Un amico fatto a nessuno se ne accorto. Senza rimorso. Dico tutti, tutti, tutti. Tutti lo ricordano, il canadese Benoit. Tragedia sportiva ormai più di un anno fa. Vicenda tremenda, indimenticabile. Al giorno d'oggi più che prevedibile. Era dopato, poi commesso il reato. Ha ucciso moglie e figli e poi si è suicidato. Vorrei poterlo non fare, ma purtroppo credo a tutto il male. L'odio che nei TG, vero, pazzi furiosi, malati di mente. Ma non solo loro, anche tanta altra gente. Dopo aver fatto la cazzata si toglie la vita. Dopo aver commesso un crimine la fa finita. E non è finita, c'è anche chissà quel che fa. Forse per i soldi, forse odiava papà. Poi torna in libertà, cazzo è vostra la colpa. Se questa terra è avvolta da un'ombra. Vivi senza rimorso. Vivi senza rimorso. Senza rimorso. This is Crackfish senza rimorso. Black Back Production senza rimorso. Senza rimorso. Causa una tragedia, vivi senza rimorso. Senza rimorso. Un amico morto, nessuno se ne accorto. Senza rimorso. Il caso è più terribile di Rossi Giovanni. Ammazzato il genitore a 19 anni. Volevi la grana? Volevi farti figo? Lurito bastardo, questo me lo chiamo motivo. Non ti bastava ucciderli, ma li hai massacrati. Ti hanno dato la vita, così li hai ripagati. 2 amici di merda, la scura alla mano. Gli hai spaccato la testa, lagando tutto il piano di sangue. Come se non fosse abbastanza, hai ucciso il fratello nella stessa stanza. Mi risuona nella mente la frase più terribile. Questi non muoiono mai, incredibile. Ma la giustizia ha trionfato, la pula ti ha cappato senza un cazzo. L'avvocato in prigione ti ha schiaffato. Solo per 16 anni è marcito in galera. Solo? Sei di nuovo la luce, ma devi vivere in misera. Tu non meriti libertà, ma nemmeno la morte. Tortura eterna, questa è la tua sorte. Non ne posso più di se stragi familiari. Che senti poveri, di matti o di milionari.